Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. Giulio Caperdoni con voi per la seconda parte di Eclettica, il volume numero 3, quello del mercoledì, quello di mezzo, dato che ce ne sono 5 fra le 19 e le 20 nei 5 giorni lavorativi della settimana. Settimana di Eclettica che è la numero 24 di una stagione che sappiamo già durerà fino alla 30esima e che sarà anche l'ultima su Rock FM. Giulio at radiorockfm.com è l'indirizzo di email da utilizzare per mantenere il contatto, almeno per queste settimane. Poi ritengo difficile che rimarrà attivo come indirizzo di email, ma ci sarà quello di Rock Family, sia sito che anche indirizzo di email di ciascuno di noi. Seconda parte che si è aperta con The Black Angels, You on the Run, il titolo del brano che si è appena chiuso, mentre la prima aveva visto in sequenza i francesi Mademoiselle Caro e Fran Garcia e poi il berlinese Get Well Soon. Ora da San Francisco ci ascoltiamo i Dodos, che già avevamo sentito nei mesi scorsi con le prove che avevano anticipato il disco ufficiale, il loro album ufficiale, che ora è uscito per French Kiss, album che si intitola Visitor, e Dodos che ci ascoltiamo con Ashley. Afternoon, gentlemen. I am a HAL 9000 computer. I became operational at the HAL plant in Urbana, Illinois, on the 12th of January, 1992. My instructor was Mr. Langley, and he taught me to sing a song. If you'd like to hear it, I can sing it for you. Yes, I'd like to hear it, Hal. Sing it for me. Tutti i respiri che ho sono per te. Tutti i respiri che hai. È così che ogni goccia di me scava la tua schiena lentamente, con un ritmo costante. Dove vai? Cosa fai? Con chi stai parlando? Cosa stai bevendo? Ascoltami. Cerca di evitare le tue distrazioni. È così che ogni goccia di me scava la tua schiena lentamente, con un ritmo costante. Respira, guarda il cielo, guarda le stagioni passare, prendi posizione, viaggia, ricerca la tua parte migliore. Non hai nemmeno un nido da tenerare, nemmeno quattro soldi per andare al mare di notte a immaginare. Notare. E così la seduzione di calmanti, le vertigini e gli svenimenti, gli sfinimenti, il controllo di tutti i movimenti. È così che ogni goccia di te scava la mia schiena lentamente, con un ritmo costante. È così che ogni goccia di te scava la mia schiena lentamente, con un ritmo costante. Tutti i respiri che ho sono per te. Tutti i respiri che hai. È così che ogni goccia di me scava la tua schiena. Il nostro contratto alla Sirena doveva durare un mese. Fu rinnovato 3 volte e solo ai primi brividi dell'ottobre smontammo gli strumenti dalla terrazza del circolo. Dopo 50 anni chiedete a quelli che c'erano. Vedrete tanti occhi luccicare. La serata d'addio, tanti applausi e tanta commozione. Finiva quello che era stato lo scandalo più amato e rimpianto. Domani la vita sarebbe tornata alla monotonia piatta, senza brividi. La bella signora Graziana De Toma alle sue interminabili partite di canasta, il barone Masci nel suo castello a ricordare ragtime e cha-cha-cha ballati sotto la luna. La prossima estate le sottovesti nere si sarebbero prese la rivincita sulla spiaggia, odorose di lavanda e restaurazione, e il commissario di polizia, finalmente, avrebbe fatto le parole crociate in santa pace sotto l'ombrellone. Questo era ancora Billie Holiday, che palle! Di Carlo Loffredo. Devastations, devastanti, con questa Rosa, la band australiana che si è trasferita in Europa e che con questo brano secondo me ha raggiunto l'apice della sua carriera, come forse l'apice, pur avendo avuto già una grande carriera, ora come solista e prima con gli Scisma, forse questo apice l'ha proprio raggiunto con il suo ultimo album, Paolo Benvenu, dal quale ho estratto la schiena. Ed ora ci ascoltiamo Ryan Adams, quello senza la B, mi raccomando, Ryan Adams che ha deciso di costruire una canzone legata al suo blog. Infatti si intitola My Blog Foggy ed è disponibile ovviamente come download gratuito. Still there, to see if you're still there, and underneath your ribs they'll find a heart-shaped locket, an old photograph of you and Daddy's arms, and then they'll sew you closed and give you back to the water from where we're all born. And you'll feed the living. You'll be a stranger and you'll be a friend. You'll be the leper and you'll be the healer. You'll be the hero and the tragedy. And when they sew you closed, they'll give you back to the water. From where we're all born, from where we're all born. Eclettica, ultima stagione, settimana numero 24, volume numero 3. Indice, The Pharmacy, Peter Moran, Quiet Village, Mademoiselle Caro e Fran Garcia, Get Well Soon, The Black Angels, The Dodos, Paolo Benvenu, Devastations, Ryan Adams, Cloud Cult. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.